Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Pietro Lacorte in regia per questa puntata di A Tempo di Sport. Un sabato importante, come ben sapete, siamo in attesa di partite che potrebbero, non so, spaccare il vertice della classifica, che potrebbero fare la differenza, che potrebbero disegnare un altro vertice. Io onestamente ci credo poco fino a prova contraria. Non so voi, 800 24 00 24 è il numero verde, ma vorrei partire da un altro argomento. Perché c'è un punto, scusatemi, sul quale Marcello Lippi ha ragione in modo indiscutibile, io direi. Ed è questo: siamo alla campagna elettorale, o se preferite alla campagna referendaria. Balotelli sì, Balotelli no, barrare la preferenza. A conferma del fatto che stiamo per buttarla davvero in politica, è scesa in campo, come ben sapete, anche la Padania ieri, scrivendo ovvietà, banalità, ma comunque fa un certo effetto leggere certe cose sotto quella testata verde. Al di là di tutto questo, io non ho nessuna voglia di buttarla in politica. Per me, mia opinione personale anche qui, Balotelli sì, ma detto in tempi non sospetti, quando in autunno c'era l'altra campagna referendaria, cioè quella su Cassano, poi alla fine trombato alle primarie, mi pare. Del colore della pelle francamente non mi importa nulla, ma dico Balotelli sì per motivi strettamente calcistici. Però è stata una settimana interessante in cui abbiamo fatto, sempre per usare termini molto noti, gli ultimi exit poll prima delle convocazioni mondiali. Sulla Gazzetta dello Sport di ieri, Alessandro De Calò ha fatto professore, ha dato i voti alle nazionali che abbiamo visto in settimana. All'Italia un 5,5. Alessandro, buon pomeriggio e grazie. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Senti, al referendum cosa voti? Al referendum su Balotelli sì o Balotelli guarda, no? Sì, non per fare i maestrini o i professori, però credo che noi della Gazzetta siamo stati i primi a sbilanciarci, a proporre un voto sì nel referendum, naturalmente tenendo conto di tutto il quadro, dell'insieme, dei punti di vista, degli interessi, delle responsabilità. Noi non abbiamo la responsabilità della gestione della nazionale, cosa che l'IPA ha, è lui che deve gestire il gruppo, è lui che in qualche modo risponderà dei risultati direttamente, personalmente, dei risultati ottenuti. Però mi pare che, insomma, vista la qualità del gioco in attacco e la facilità con la quale l'Italia riesce a segnare, avere un Balotelli come opzione in più mi sembra sia una cosa molto normale, no? Sì. Molto, in qualunque altro paese d'Europa probabilmente non si discuterebbe molto di questa cosa, certo. Si farebbe basta. Ci sarebbe basta, anche perché come caratteristiche tecniche è il giocatore ideale per un mondiale, no? Quello che può comunque entrare 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, un tempo e spaccarti la partita come spesso fa nell'Inter. Io direi proprio di sì, la differenza tra lui e Cassano, cioè il caso Balotelli e il referendum Cassano, e che Cassano, se ci ragioniamo bene, in realtà non è mai stato un uomo decisivo ad altissimi livelli, non è uno che ha deciso grandi partite, invece mi sembra di capire che Balotelli, magari entrando in un secondo tempo, anche nell'ultima mezz'ora, ma in partite importanti come quelle di Champions League, è uno capace di prendere la calza e di rovesciarla, certo. E quindi cioè in questo momento è uno che ha più impatto, più personalità e incide di più nell'Inter di quanto non lo faccia Samuel Eto'o, che come sappiamo fino a pochi mesi fa era considerato il centravanti più forte del mondo, quindi insomma qualcosa Balotelli vale, credo. Assolutamente, quest'Italia io trovo che al momento assomigli molto a quella dell'86, non per fate pure scongiurare che volete, fate quello che volete, però assomiglia a quella dell'86, che era campione del mondo in carica, è povera di talento, è anziana anche come stimoli oltre che come dati anagrafici. Il Balotelli dell'epoca, se ti ricordi bene, Gianluca Vialli non fu sufficiente in Messico per ribaltare l'esito della spedizione. Era la foglia di fico. Il problema, c'era anche un Galderisi e un Di Gennaro che incombevano, mi pare. Sì. Il problema è appunto è la qualità. Allora, ci sono anche qui, come dire, delle tradizioni, no? Il Brasile, per esempio, a prescindere da come giocano in quella stagione, in quel mese, in quell'anno, scelgono più o meno 11 titolari e vanno avanti con quegli 11 qualunque cosa succeda. Mi ricordo un Roque Junior inguardabile nel Milan e in diverse altre squadre, che però incredibilmente in nazionale giocava anche bene. E lo stesso discorso che sta funzionando adesso con Felipe Melo. Lucio quest'anno ha giocato bene, l'anno scorso il Bayern mica tanto, sì, eppure era lì titolare inamovibile, capitano del Brasile, eccetera. Questa è una logica, però va anche detto che col Brasile i risultati li hanno ottenuti, perché hanno vinto la Coppa America, hanno vinto la Confederation Cup, credo che hanno comunque un ruolino di marcia dal punto di vista dei risultati, non certo della qualità del gioco, inattaccabili. L'Italia non ha un ruolino di marcia né dal punto di vista dei risultati né tantomeno dal punto di vista della qualità del gioco in qualche modo accettabile. Per questo io credo che, insomma, soprattutto dove sono evidenti le carenze, e in attacco sono molto evidenti, in qualche modo bisogna intervenire, ecco. Certamente. Verrei ai tuoi voti, ai voti che hai dato appunto alle grandi, quest'ultimo giro di amichevoli prima delle convocazioni. L'otto e mezzo alla Spagna, che è la grande favorita di questo mondiale, e come tu scrivi giustamente, il vecchio Vicente del Bosque ha dato a questo gruppo, che si è tolto la scimmia dalla spalla vincendo l'europeo, anche un gioco bellissimo. Ha vinto in Francia, ma non li ha visti, cioè i francesi non hanno neanche preso la targa agli spagnoli. È verissimo, in realtà Del Bosque ha aggiunto, diciamo, la panna montata vicino alla Zacher, che era già bella apparecchiata sul tavolo. Sì. In che senso? Nel senso che questa Spagna è figlia di un momento, di un grande momento del Barcellona, e storicamente la Spagna funziona quando funziona il Barcellona. Non a caso nel 60 vinse l'europeo con Suarez, credo pallone d'oro quell'anno, leader e regista del Barcellona. Il Barcellona esprime il calcio sul quale poi si possono inserire anche gli eventuali campioni del Real. Ecco, in questo momento sappiamo che, insomma, il Barcellona ha 8 o 9 titolari che vengono dal vivaio, e quindi buona parte di questi poi sono la trama attorno alla quale funziona la nazionale. Funziona benissimo dal punto di vista del gioco, della qualità del gioco, ma anche ha le migliori individualità. In questo momento i veri galattici sono, è la nazionale spagnola, c'è un'altra nazionale, sicuramente non il Brasile, che può esprimere così tanti campioni di così tanta qualità. L'ultimo, io sottolineerei proprio la qualità di Piquet, perché avere Piquet come difensore centrale vuol dire avere un centrocampista in più, perché è un vero e proprio regista. Difatti gli spagnoli lo chiamano il Beckenbauer della Catalunya. È un regista, ma al tempo stesso è fortissimo in acrobazia ed è fortissimo sull'uomo, quindi è come avere uno o due giocatori in più. Certo, è il classico difensore centrale che fa ripartire l'azione, cosa di cui c'è una discreta carenza, no? Ed è anche il motivo per cui l'Inter ha provato a prendere Lucio, perché mancava quel tipo di giocatore. Sembra che noi, Alessandro De Calò, inviato dalla Gazzetta dello Sport, parlando del Brasile, Alessandro, tu dai un 8 a questo Brasile, viaggia a velocità di crociera. L'esclusione di Pato continua a tornarmi misteriosa, al di là delle condizioni fisiche del momento, meno quella di Ronaldinho, ti dico la verità. Sì, certo, ma insomma sono due esclusioni che contano, come dicevamo un po' prima, contano sul fatto che in questi due anni il Brasile è funzionato bene anche senza di loro, quindi probabilmente si è creato una chimica nel gruppo, un equilibrio tra Kaká, Robinho, Luis Fabiano e soprattutto, diciamo, i pupilli di Dunga, che sono i giocatori nei quali lui sembra reincarnarsi, che sono Felipe Melo e soprattutto Gilberto Silva, che sono due stopper piazzati lì davanti alla difesa, questa squadra molto europea, che ricorda molto il Brasile che nel 94 vinse la finale ai rigori contro l'Italia di Sacchi, insomma, una squadra tolto direi Kaká, che comunque può fare il paio con il Romario di allora. Una squadra molto operaia, molto concreta, che sa soffrire, che probabilmente sa anche rimontare qualche situazione difficile, che naturalmente sarà estremamente competitiva al mondiale. È difficilissimo affondare questo Brasile, credo, però non è la squadra che anche in un amichevole ti inchioda davanti alla TV, certo, a vedere i numeri che fanno, perché insomma giocano appunto un calcio molto europeo, molto scarso, molto tedesco, concreto. Molto tedesco. Tra poco comincio a parlare con gli ascoltatori, è 800 24 00 24, poi un'altra battuta invece su quella che è, Alessandro, la mia personale sorpresa in quest'ultimo giro di prove libere prima delle convocazioni, ed è l'Argentina, che l'ho vista l'altro giorno con la Germania. Sto cominciando a vedere una squadra di calcio dopo che per tutte le qualificazioni una squadra di calcio non si è vista. Sì, a me personalmente questa Argentina non mi piace, sì. Penso sia molto al di sotto di quella che è la qualità dei giocatori che potrebbe mettere in campo e far giocare. Per primo penso a Juan Román Riquelme, che insomma adesso c'ha i suoi anni, c'ha un carattere da intrattabile. Maradona ne soffre molto la personalità, ma penso sia forse l'ultimo numero 10, sì, che esiste al mondo, ecco. Il fatto che lui abbia dovuto ricorrere al 36enne Verón per trovare insomma un playmaker, un uomo faro, sì, un trequartista che riesca a fare qualche assist, ci dice molte cose. Anche questa Argentina è un'Argentina tarata molto sul calcio europeo, molto concreto, e se non avrà dei problemi legati alla psicolabilità di Maradona e tutto quello che lo circonda, potrà naturalmente, come sappiamo, andare fino in fondo, perché gli argentini in un torneo nel quale tra l'altro potrebbero trovare delle difficoltà e quindi questo coagulare ulteriormente la forza del gruppo eccetera, con un effetto tipo quello appunto dell'86 o del 90, arrivare fino in fondo, questo non è da escludere. Per chiudere, la notizia di oggi, ma già ampiamente anticipata anche dalla Gazzetta di ieri, insomma, accanto a di spalla al tuo pezzo con le pagelle, FIFA ancora no ai sensori sulle 5 arbitri. Oggi è arrivata dall'International Board questa bocciatura definitiva, pare, alle tecnologie in campo, perché il comunicato ufficiale dice: il principio delle nuove tecnologie è stato rifiutato a lungo termine, è stato annunciato così a Zurigo, prevale dunque la linea della FIFA, che io condivido peraltro, anche qui opinione personale. Tu come la pensi? No, io guardo, purtroppo sei dell'altro partito, ma sai, partiti, sono . Dall'altra parte, ma per un fatto molto semplice: il calcio non è più fatto per essere visto allo stadio, no? Il calcio oramai è fatto, lo stadio è uno studio televisivo, come scriveva Borges una cinquantina d'anni fa. È uno studio televisivo che serve perché, soprattutto pensiamo ai mondiali, 1 miliardo di persone possono vedere una partita. È possibile, domanda, che 1 miliardo di persone vedano molto meglio di quanto un arbitro veda una cosa e possa giudicarla? Secondo me non è possibile, no? Quindi è una questione di tempo, prima o poi si arriva. Mi sembra che questa sia la posizione che insomma è una difesa della cittadella, delle mura della cittadella, della Maginot, che presto verrà, temo, accerchiata e sorpassata da qualcos'altro. Anche se il mio sogno è quello di avere gli allenatori italiani che parlano come Ancelotti dopo Inter-Chelsea. Ti confesso. Grazie Alessandro, grazie davvero, buon lavoro. Grazie a te, altrettanto. Grazie ad Alessandro De Calò. Dunque, adesso, come promesso, comincio a parlare con gli ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666. Temi sono tanti, della giornata di campionato che si sta per aprire, non temete, tra poco parleremo con tutte le anticipazioni del caso, con Toni che a quanto pare andrà in panchina a Roma, con la Juventus che ha il dubbio, anzi la quasi certezza del forfè di Del Piero, al suo posto dovrebbe giocare Candreva, tra 40 minuti comincia la partita di Firenze. A proposito poi di referendum, ovviamente io uno spaccato della realtà sul monitor messaggi SMS del tipo: Balotelli uguale reazione in consulta al primo fallo, conseguente cartellino giallo o rosso, i tagli in 10 fino al 90esimo, no grazie, scrive un ascoltatore. Un altro ascoltatore di segno opposto: Balotelli, anche tutte le motivazioni valide di questo mondo per fare un buon lavoro in Sudafrica, considerata volenti o nolenti la discendenza, scrive Ale da Senigallia. Questo conta poco, le motivazioni ci sono, cioè che si giochi in Sudafrica, tutto quanto, secondo me conta davvero poco. perché come peraltro scrive la Padania, Balotelli è nato, cresciuto in Italia, è assolutamente italiano. Non ne farei una questione di questo tipo, ne farei proprio una questione tecnica. Un giocatore così, ripeto, magari ovviamente non da titolare perché non c'è mai stato in questa squadra, però da giocatore di rottura, da giocatore in grado di risolvere la partita con una giocata, ma sì, tutta la vita, Balotelli. Detto questo, io continuo a ritenere che Marcello Lippi, insomma, faccia benissimo a rivendicare il diritto di operare le sue scelte come aveva fatto con Cassano, insomma. Poi le spiegasse anche, non sarebbe male, però a lui il compito, non c'è dubbio. In attesa degli ascoltatori vedo che c'era Giacomo da Trieste, che però è caduto, forse non lui ma la linea, naturalmente stiamo per ripristinarla. Io ne approfitto per darvi, e questa è cronaca, i risultati di Serie B. Siamo quasi alla fine delle partite, quindi pressoché finali. Partite iniziate alle 15:30, un sacco di gol e diverse sorprese come ad ogni turno della Serie B. Ascoli Salernitana 4-2 con doppietta di Arturo Lupoli. Il Brescia che perde in casa con il Grosseto 3-1, doppietta di Piniglia per i toscani. Quindi il Cittadella con doppietta di Ardemagni conduce 2-1 sull'Empoli, questo è già finale, è già ufficiale. Albino Leffe conduce 3-0 sul campo del Crotone. Il Padova conduce 2-1 sul campo del Gallipoli. Il Lecce ha pareggiato in extremis, doppietta di Munari, anche in questo caso giornata di tanti gol, di tante doppiette, anche quella di Rolando Bianchi nel 3-1, ancora parziale del Torino sul Frosinone, ha ribaltato il risultato in questo finale di partita al Toro. Anzi, tripletta di Rolando Bianchi, perché ha segnato il gol di apertura su rigore al 42esimo. Ebbene, dicevo del Lecce, capolista che in rimonta è riuscito ad acciuffare il Mantova, ora è 2-2, la partita non è ancora finita. Il Modena vince 2-1 sull'Ancona, il Torino come detto è in vantaggio 3-1 sul Frosinone, tripletta, ripeto, di Rolando Bianchi. 0-0 tra Triestina e Vicenza, questo è finale. È finale anche il risultato del Torino, poi facciamo i conti di classifica. Intanto saluto Federico da Genova, buonasera. Buongiorno. Buongiorno, Federica forse. Buongiorno. Federico? Pronto? Sì, mi dica. No, mi dica lei. Volevo chiederle, secondo lei la Roma ha speranze di vincere dopo... vincendo contro il Milan il campionato? Quanti anni hai, Federico? C'è mio padre vicino. Bellissimo sentire una voce così giovane. Grazie. La Roma ha possibilità di vincere il campionato? Ma io sinceramente, così cominciamo a parlare anche delle partite di oggi, io sinceramente non vedo ancora l'Inter in sotto pressione, l'Inter in difficoltà. Adesso stiamo a fare tutti i conti, oggi ne ho letti diversi, anche interessanti. Quello del Milan, i conti relativi al Milan li conosciamo, al netto dei derby il Milan ha fatto 2 punti in più dell'Inter, no? Però come si fa a ragionare al netto di quei 2 derby che rappresentano il sale di questo confronto a distanza tra Milan e Inter? Lì in quei 2 derby, uno molto, molto precoce ancora ad agosto, seconda di campionato, l'altro ben più significativo. Beh, insomma, da quei 2 derby si legge chiara la differenza tra il Milan e l'Inter. La Roma... sono stati fatti anche qui dei conti, no? La Roma è riuscita a compiere una rimonta incredibile. Nelle ultime 16 partite ha fatto 7 punti in più rispetto all'Inter, però anche qui sono statistiche e sono da interpretare, perché è difficile, e penso all'Inter, vivere sempre abbondantemente in testa, trovare gli stimoli, trovare, no, quando sei a più 8, più 9 costantemente con una velocità di crociera costante, è un po' difficile fare conti di questo tipo. Vediamo se una delle due, perché questo c'è da augurarci in chiave campionato, che una delle due riesca davvero a mettersi, a portarsi vicino all'Inter, a mettere pressione all'Inter. Immaginate un Milan a meno uno che va a dormire a meno uno, l'Inter domani sera al Genoa, che in trasferta in questa stagione è abbastanza disastroso, però insomma sarebbe già un test significativo questo. Non lo so, io continuo a non vedere grandi aperture in testa alla classifica, continuo a pensare che solo l'Inter può gettare alle ortiche questo scudetto, non so se ci riuscirà. 800240024, Roberto da Roma, buonasera. Buonasera. Dica. Volevo parlare un pochettino della mia Lazio. Sì. Secondo lei riuscirà a salvarsi? Noi purtroppo tifosi laziali siamo proprio insomma disperati per questo fatto, anche molto preoccupati, insomma, partiti con ben altri obiettivi, ci troviamo a combattere per la salvezza, quindi volevo che lei ci messe un giudizio su questo argomento. Sì, io uso le parole di Rey oggi in conferenza stampa, ha detto non voglio nemmeno sentir parlare di retrocessione, quindi io non credo che la Lazio retrocederà, anche se si trova in un momento estremamente difficile, però credo che abbia tutte le caratteristiche tecniche anche per mettere in fila quelle due vittorie, quei due o tre risultati positivi consecutivi che darebbero una faccia diversa alla sua classifica. Una Lazio in Serie B, questa Lazio in Serie B io non riesco a vederla, in tutta onestà. Adesso mi devo fermare? No, vado avanti. Benissimo, vado avanti. No, dicevo della Lazio, l'unica cosa che faccio un po' fatica a capire è la gestione di Zárate, che è il giocatore di maggior talento della Lazio. So anch'io che ha delle difficoltà caratteriali, qualche problema ad allenarsi bene con continuità, però Zárate stabilmente da riserva io non riesco a vederlo. Settimana ho sentito Rocchi sull'argomento dire sta lavorando bene, speriamo che continui così, insomma le solite frasi fatte, le solite banalità. La verità è che di Zárate, e questo l'ha ammesso anche Rocchi, questa Lazio fa un po' fatica a fare a meno, se vogliamo parlare realisticamente di calcio. Ho intravisto un fantastico gol di Bianchi, di Ronaldo Bianchi, era il terzo nella sua tripletta personale, il terzo gol che ha steso il Frosinone, girata a centro area, gol da grande attaccante, confermi i risultati di prima con un'unica variazione, il Brescia al 49esimo del secondo tempo ha accorciato le distanze, sempre con Possanzini, ma ha perso 3-2 in casa con il Grosseto in classifica, Lecce 49, Grosseto 46, Sassuolo, Brescia 45, Cesena 44 e via tutte le altre. Ale Dalodi, su chi scommettereste 10 euro come vincente dei mondiali? Io Germania e Olanda, se partiamo dal presupposto che vogliamo rastrellare due soldini, quindi lasciamo stare il Brasile e magari anche la Spagna, io un po' per simpatia, un po' per altro, li punterei proprio sull'Argentina, che ho visto in crescita e che è un giocatore, non dico in grado di vincere un mondiale da solo, ma in grado di essere la stella più luminosa, e sapete benissimo chi è, inutile dire che è Messi, no? Il teatrino del calcio è interessante e divertente, i protagonisti sempre diversi, Balotelli Cassano, Cassano Balotelli, meno male che c'è il calcio, ma meno Fulvio lo scrive, meno male che ci sono Cassano e Balotelli, sennò le partite del programma pomeridiano di domani, insomma, si rischia l'effetto Gran Premio. A proposito, poi parliamo anche di Formula 1. Alfonso da Salerno, buonasera. Ah, buonasera. Dica. Senta, io volevo chiederle innanzitutto complimenti per la trasmissione. Insomma, di Totti sento parlare poco in nazionale, cosa ne pensa lei? È che si è chiamato fuori, risulta, no? Risulta si sia chiamato fuori e non ci sono ufficiali retromarce, mi pare. C'è questo lungo corteggiamento, intendiamoci, Totti è un giocatore che mi è sempre piaciuto, ma insomma, è abbastanza un eufemismo, un giocatore che anche oggi fa la differenza nella Roma, quando gioca, quando sta in maniera appena accettabile. Detto questo, si è ricominciato anche a parlare di Del Piero, se è per quello in nazionale. Infatti. Però insomma, io per mille motivi insomma girerei pagina, no? Eviterei di tornare indietro e volterei pagina andando proprio sul numero 45 dell'Inter, dovendo fare una scelta di questo tipo e dell'ultima ora, e mi sembra che una scelta di questo tipo e dell'ultima ora si imponga per l'Inter, perché non facciamo gol mai, insomma basta guardare l'esito delle ultime partite, l'ultimo gol azzurro in tre partite l'ha segnato Chiellini, fate voi, ditemi se abbiamo bisogno o no di talento là davanti. Allora proviamo a guardare chi scenderà in campo, mai come oggi l'appuntamento è atteso, ho l'impressione, con Giovanni Capuano. Buonasera. Buonasera. Ciao, Carlo. Giovanni. Allora, partiamo dalla partita che sta per iniziare tra 20 minuti e che è un Fiorentina-Juventus che somiglia un po' a un ultimo treno per la Juve, o no? Sì, è un ultimo treno anche per la Fiorentina, in realtà. Sì. Per la Juventus di certo, perché la sconfitta contro il Palermo in casa ha gelato molte delle convinzioni di un ambiente che credeva di essere tornato nelle prime quattro stabilmente, e addirittura guardava questa giornata con la malcelata speranza di avere buone notizie da Roma per vedere se era possibile ragionare anche su un possibile aggancio nel finale di stagione a uno dei primi tre posti, cosa che ovviamente è completamente decaduta con la sconfitta contro il Palermo. La Fiorentina, a parole due settimane fa, le ultime che ha detto Prandelli, così come Della Valle, la corsa Champions si era chiusa sul mancato fischio del calcio di rigore di Fiorentina-Milan. Poi in realtà, dando un'occhiata alla classifica e guardando ai finali di stagione cui ci ha abituato la squadra di Prandelli, diciamo che questa sera diventa lo spartiacque. Se questa sera la Fiorentina vince, può sognare un finale di stagione in rincorsa, altrimenti si ragiona soltanto cercando di fare buona figura in Champions, magari cercando di aggrapparsi all'Europa League. Insomma, è comunque una partita che ha tantissimi significati, perché tra l'altro credo da questa partita dipendano un poco anche il futuro di Prandelli, sì, a Firenze, non tanto verso la nazionale quanto verso la Juventus, ma soprattutto misurando quelle che saranno le ambizioni l'anno prossimo della Fiorentina, che o fa un salto di qualità oppure ben difficilmente può essere un può essere qualcosa di accattivante per un tecnico che a questo punto lui sì ha fatto il salto di qualità. Certo, chi va in campo, Giovanni? La notizia dell'ultima ora, l'ho anticipata prima, è quella di Del Piero, che non è nell'undici titolare. Sì, Del Piero va in panchina perché ha un fastidio muscolare. Alla fine Zaccheroni, che è scottato dalla conta degli infortuni, ha deciso di non rischiare. La notizia che si porta dietro il forfait di Del Piero è il cambio del modulo, perché la Juventus giocherà con l'albero di Natale, il 4-3-2-1. Al posto di Del Piero gioca Candreva, che giocherà sulla linea con Diego. Juventus che a questo punto giocherà con una sola punta, che sarà Trezeguet. E poi l'altra notizia in casa bianconera è che Zbina ha vinto il ballottaggio con Grighera e dunque sarà il laterale destro di difesa. E nella Fiorentina, recuperato Vargas, Prandelli ha deciso, e questo secondo me è anche un po' il simbolo dell'importanza che assegna a questa partita, ha deciso di rischiarlo malgrado fra tre giorni ci sia il Bayern Monaco. Quindi Fiorentina che gioca davanti con la formazione tipo, cioè Girardino punte, dietro Vargas, Jovetic e Marchioni. A metà campo Montolivo e Cristiano Zanetti, e dietro ci sono tutti i titolari possibili, quindi c'è Natali e Felipe, coppia centrale, anche se Natali e Felipe non stavano benissimo, c'è Gobbi laterale di sinistro, c'è Comotto, insomma è la Fiorentina migliore che in questo momento Prandelli può mettere in campo. Sì, per chiudere il pacchetto Fiorentina Juventus vi faccio sentire anche un paio di voci, ovviamente di ieri di conferenza stampa, Prandelli e poi Zaccheroni. Prandelli. In questo preciso istante la mia concentrazione e la concezione della squadra deve essere assolutamente su queste partite, soprattutto su quella di domani, ricercando anche comunque un risultato, perché sarebbe veramente per noi motivo di continuare a sognare un posto che per quanto mi riguarda ci compete ancora. Noi stiamo anche abbastanza bene, abbiamo recuperato Gilardino, abbiamo recuperato Santana, per quanto riguarda Vargas e Natali dobbiamo valutare oggi le condizioni. Avremo uno stadio carico e quindi ci sono tutte le premesse per giocare una grande gara. Sentiamo a Stretto Giro di Posta anche Prandelli sull'avversario di oggi. Scusate, Zaccheroni naturalmente sull'avversario di oggi, cioè sulla Fiorentina. Io credo che la Fiorentina abbia pagato sicuramente alcune defezioni importanti, prima tra tutte Mutu, e poi lo so perché per le esperienze precedenti e per l'esperienza ultima, che giocare in Coppa condizionano poco, anche se loro hanno una pausa maggiore tra una partita di Coppa e l'altra, mentre noi siamo in ballo tutte le settimane. Questo era Alberto Zaccheroni. Giovanni, arriviamo all'anticipo più atteso, cioè quello di stasera, lo spartiacque per la rincorsa all'Inter. Allora, mi sembra che Toni non partirà titolare come ieri era sembrato. No, Toni a questo punto pare quasi certo che parta dalla panchina, perché le sue condizioni non danno garanzie, e soprattutto danno garanzie le condizioni di Vucinic e di Giulio Baptista, che a Napoli era stato il migliore in campo, e anche se la riunione tecnica c'è in realtà soltanto fra mezz'ora, però pare che Ranieri sia orientato a non cambiare almeno davanti la squadra che gli ha quasi permesso di sbancare Napoli. Quindi Roma che giocherà con il 4-2-3-1 con Vucinic punta, Baptista con Perrotta e Taddei alle sue spalle, è recuperato Pizarro che è fondamentale, lo ha detto Ranieri, quindi certamente gioca anche se le sue condizioni non sono le migliori, gioca insieme a De Rossi, e dietro non dovrebbe essere riproposto il modulo a tre difensori, quindi Mexès andrà in panchina. A destra giocherà Cassetti, sarà colui che incrocerà con Ronaldinho, poi Burdis e Juan centrali, Arise a sinistra, torna in pianta stabile Giulio Sergio in porta. Nel Milan c'è ancora un dubbio, perché in realtà da qualche indiscrezione che filtra da ambiente Milan, dove tra l'altro oggi Berlusconi ha pranzato con la squadra a Roma e questa sera sarà in tribuna, e questa è una notizia perché Berlusconi da almeno due mesi non si vedeva in ambiente rossonero, insomma filtra la notizia che potrebbe esserci un atteggiamento forse un po' più prudente di quello sin qui sbandierato da Leonardo in questa vigilia. Noi diamo ancora per buona la formazione con Beckham, Borriello e Ronaldinho tridente d'attacco, con Flamini al posto di Gattuso che è squalificato nella linea di metà campo, e con Bonera e Antonini laterali di difesa. In realtà c'è anche la possibilità che giochi Abate difensore con Beckham leggermente arretrato, e quindi con una formazione leggermente meno sbilanciata, leggermente meno offensiva, anche se va ricordato che con questo Milan a gennaio Leonardo ha fatto benissimo, e di fatto derby e una scivolata a parte aveva trovato quegli equilibri che gli avevano consentito comunque di fare parte della rincorsa all'Inter. Ci fermiamo un attimo e poi diamo un'occhiata rapida alle partite di domani, in particolare ci sono Livorno e Palermo e Napoli, che il sogno di Champions League ce l'hanno ancora ben saldo in testa, guarderanno con attenzione naturalmente Fiorentina e Juventus, e poi c'è l'Inter domani sera che riceve il Genoa. Se volete abbiamo ancora un po' di spazio, 800 24 00 24 è il nostro numero verde, 349 238 6666, per i messaggi c'è Giovanni Capuano che ci sta dando le ultime dai ritiri della Serie A. Domani pomeriggio, come dicevo, un programma da intenditori o forse da calciomaniaci, niente di così imperdibile, però come dicevamo ci sono Napoli e Palermo che danno l'assalto, che continuano il loro assalto al quarto posto, Giovanni. Sì, tra l'altro c'è la curiosità che Mazzarri a Bologna di fatto compie il primo girone da allenatore del Napoli, perché proprio in Napoli-Bologna l'andata partita, tra l'altro vinta anche in maniera abbastanza fortunosa, al 94esimo aveva iniziato la sua avventura. Domani gioca il tridente, la Lavezzi-Hamsik con Quagliarella. In settimana alcune parole di Mazzarri avevano fatto capire che probabilmente alcune gerarchie in attacco erano cambiate, e il riferimento era proprio a Quagliarella che da diverse settimane non riesce a trovare la porta. Oggi Mazzarri ha un po' precisato il suo pensiero, di fatto ha ufficializzato che Quagliarella domani sarà in campo dal primo minuto, e comunque il Napoli conta molto su di lui. Confermato anche il recupero in porta di De Sanctis, che dunque ci sarà dietro, è confermato che non ci sarà Grava, al suo posto gioca Rinaudo. Una notizia anche per il Bologna, gioca Britos al posto di Moras, che in settimana è andato con la nazionale greca, Colomba non l'ha visto bene, quindi domani gioca Britos centrale in difesa. Per quanto riguarda il Palermo, che ospita il Livorno, sulla carta una gara facilissima, tra l'altro il Livorno alle prese ancora una volta con delle polemiche intestine con il presidente Spinelli, che ha attaccato allenatore, squadra. Oggi Cosmi ha cercato un po' di fare il sarto e di ricucire questo rapporto, però è evidente che il Livorno non arriva nelle migliori condizioni, non solo tecniche, a questa partita. Il Palermo non avrà Migliaccio, che sembrava recuperato, invece non è stato nemmeno convocato, non avrà nemmeno Bresciano, non c'è Cassani che è squalificato, quindi questo era noto. Giocheranno Blasi, laterale destro di difesa, Bertolo che è favorito per occupare uno dei tre posti di centrocampo, ovviamente confermatissimo Pastore, che nelle ultime settimane settimane ha confermato tutto il suo talento e sul quale ci sono gli appetiti di tante grandi squadre, non soltanto italiane. E davanti la coppia Cavani-Miccoli. Miccoli ha segnato 3 reti nelle ultime 3 giornate e dopo Pato è il miglior attaccante di questo mese di febbraio, inizio mese di marzo. Dunque è l'uomo su cui il Palermo punta per una giornata importante, perché giocare in casa contro il Livorno il giorno dopo Fiorentina e Juventus, certo, potrebbe significare, certo, per il Palermo mettere un po' di spazio tra sé e il quinto posto. Certamente. Sull'Inter vuole intervenire anche un ascoltatore, Inter che con cui chiuderemo questa carrellata di anticipazioni. Alfonso Agrigento, buonasera. Buonasera e complimenti per la vostra trasmissione. Grazie, un piacere parlare con lei. Io volevo praticamente fare delle precisazioni su quanto riguarda l'Inter. Sì. Guarda, l'Inter praticamente gli mancano minimo 6 punti rispetto al Milan. Sì. Giusto? Se noi parliamo di Bari-Inter, rigore del signor Rosetti, scivolata, sì, di Samuel, sì, e il signor Rosetti fischia il calcio di rigore, giusto? Ma io guardi, ho pochissima memoria. Mi ascolti. Sì, poi, provo già presto. Inter, dica. Napoli-Inter, Aronica al 15° minuto. Il rigore netto, se lei lo sa che quando praticamente due squadre si equivalgono, poi sono gli episodi che fanno la differenza, e purtroppo l'episodio era a favore dell'Inter e non gliel'hanno dato. Sì, un po' da tutte le parti, sì, va bene, io ripeto, ho scarsa memoria storica su questi singoli episodi, perché io guardo il calcio e vedo che al di là dello spigolare tra i singoli episodi e del ricordare ogni volta che posso Carlo Ancelotti, io vedo una squadra che per me conta nei confronti diretti. Ebbene, nei confronti diretti, se il duello è tra l'Inter e il Milan, per me quei due derby fanno testo al di là dei 6 punti e dei singoli episodi. Anche il Milan ne ha avuti, insomma, non la metterei su quel piano, rimarrei sul piano calcistico personalmente. Chi gioca domani nell'Inter e chi gioca nel Genoa, Giovanni? Allora, intanto ti dico chi non gioca. Non gioca Thiago Motta, che non è stato convocato oggi per precauzione, non ha nemmeno fatto la seduta di allenamento, ha un fastidio muscolare e non gioca. Mourinho non vuole rischiare niente in vista soprattutto del Chelsea fra 10 giorni. Non gioca nemmeno Santon, però questa era, si sapeva, in realtà la buona notizia è che oggi per la prima volta Santon ha fatto tutto l'allenamento col gruppo dei titolari, e quindi se non ci saranno problemi nei prossimi giorni tornerà disponibile venerdì sera nella trasferta di Catania e potrebbe a questo punto essere disponibile anche a Londra. Tu sai che, perché Mourinho l'ha detto, che lui apprezzerebbe avere Santon sulla linea della difesa per potersi portare a Londra Zanetti a metà campo, e Zanetti invece domani giocherà sulla linea difensiva insieme a Lucio e Samuel rientra dalla squalifica, così come Cordova e così come Muntari. Cordova e Muntari che si accomodano però in panchina. La sensazione è che, avendo qualche problema a centrocampo, alla fine Mourinho deciderà di giocarsela contro la penultima peggiore difesa del campionato, spingendo soprattutto sull'attacco, quindi Milito punta unica e dietro Balotelli, Snyder e Eto'o, con Pandev che dovrebbe avere un turno di riposo in panchina, e Muntari e Stankovic mediani a coprire le spalle ai 4 attaccanti. Per quanto riguarda il Genoa, viene a San Siro con il tridente. Mesto è favorito su Sculli, punta centrale Suazo che torna ad avversario a San Siro, poi c'è Palacio. Non ci sono grandi novità nel Genoa, insomma, Genoa che sale a San Siro con la seconda peggior difesa del campionato, che non è un buon viatico contro un attacco, certo, come quello dell'Inter. La partita probabilmente si giocherà lì. Sì, certo, come ho avuto modo di dire anche troppe volte, Genoa quest'anno non mi piace, lo trovo molto imborghesito, e il dato più significativo, proprio quello che tu citavi, seconda peggior difesa del campionato, un dato che una squadra come il Genoa, come era il Genoa fino all'anno scorso, un dato che non, questa squadra non si può permettere. Grazie Giovanni Capuano. Dunque, queste tutte le anticipazioni sulla vigilia della Serie A, che comincia tra 7 minuti con Juventus e Fiorentina in campo a Firenze. Io ho ancora 5 minuti invece per un'ulteriore marcia di tappa di avvicinamento verso un mondiale di Formula 1 di cui già in lontananza sentiamo i motori e leggiamo molte parole. L'ultima intervista di Alonso, l'alettone della McLaren, insomma, già tanti temi. Mario Boltronieri, buonasera. Buonasera. Buonasera, ciao Carlo, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, quell'alettone monitorato da, ma da Red Bull e Ferrari. Ti dirò, il responsabile del team dice che Charlie Whiting, cioè il responsabile del controllo, del regolamento, della sicurezza, eccetera, cioè il grande boss dell'organizzazione della Formula 1 subito sotto Ecclestone, ha detto che quell'alettone è regolare. E, naturalmente le voci che si sentono da Jerez, da Barcellona, dove ci sono state le prove, eccetera, e maliziosamente dicono che tutti hanno nel cassetto un reclamo contro qualcun altro. Si tratterà di vedere nelle prove che cosa succederà, però per adesso quell'alettone lì dovrebbe essere a posto. E, si tratterà però di vedere poi qual è l'affidabilità e come hanno digerito questa modifica regolamentare così enorme come quella del trovarsi col serbatoio, certo, completamente pieno, perché parliamo di macchine che passano dai 650 a 690 kg in partenza l'anno scorso a 800 kg adesso, quindi il pilota interviene molto più, si è dovuto lavorare sui freni ovviamente, perché frenare una, certo, macchina più pesante comporta una maggior fatica, quindi poi l'assestamento della vettura che naturalmente modifica le sue posizioni, insomma sarà una cosa estremamente interessante. Il ritorno di Schumi poi è l'aspetto mediatico più importante, perché ha riportato un grandissimo personaggio, si vedrà che cosa potrà fare. Ecco, adesso diciamo che se dobbiamo dare una scala dei valori, tutto sommato io vedo Alonso, Hamilton e Vettel come primo gruppo, sì, subito dietro Scheckter, Button, Massa e Webber. Questi secondo me dovrebbero essere i protagonisti nella fase iniziale, cominciando dal Bahrain che vedremo tra l'altro alle 15 di domenica 14, sì. Per il resto è inutile che approfondiamo. Ma troppo, come leggi questo precampionato, Mario, al netto delle parole che in questo momento lasciano il tempo che trovano, parlano un po' tutti molto volentieri, ognuno fa la sua brava dichiarazione di intenti, però in un minuto, Mario, questo precampionato come lo leggi? Sulla pista e sull'indicazione della pista? Dice che la Ferrari è quella che ha fatto più strade, che dà la maggior garanzia sul passo gara, sì, non forse la maggior strada, ma sul passo gara è quella che sembra più a posto, mentre dal punto di vista delle prestazioni sembra tutto sommato che la McLaren sia un pochettino avvantaggiata. Si tratterà poi di vedere, per esempio, visto che parlavamo di rifornimento, il problema dei consumi, visto che i motori sono bloccati, e tra l'altro quest'anno si avranno solo 6 motori, non 8 per tutte le gare, quindi ci saranno problemi di penalizzazioni e così via, ulteriori complicazioni, altre parole, certo. E diciamo che il problema del consumo sarà stato studiato anche da quelli delle benzine. Al momento attuale i motori Mercedes e i rientranti Cosworth pare consumino qualche cosa meno, però lo verificheremo poi durante la gara. Chiaro. C'è altro punto molto, molto importante, è ovviamente il cambio delle gomme, che è consentito e che presuppone, quindi non essendoci più la lentezza di 10-12 secondi del rifornimento, sì, diventa elemento determinante per la classifica, quindi adesso si sta cercando di trovare delle soluzioni per passare dai tradizionali 4 secondi e scendere almeno a 3. E quindi sarà una gran gara anche ai box, ne parleremo, Mario, alla prossima. Siamo quasi pronti, i motori in lontananza, come dico, si sentono già, io sento invece la campanella come a scuola, è finito il programma, ci sentiamo domani dalle 5 alle 7. Grazie a Giorgio De Luca per il lavoro in redazione, a Pietro Accorte in regia. Domani.